Amen. Amen. Girati alla persona che ti sta a fianco e ricordagli: tu sei più che vincitore in Cristo Gesù. Alleluia. Alleluia. Ora possiamo accomodarci. Ora può ripartire il cronometro. Ora comincio a predicare il messaggio che il Signore ha messo nel cuore per noi questa sera. Sapete, la Bibbia, lo sappiamo bene, se l'hai letta almeno una volta, presenta delle tematiche in maniera ripetitiva. Ci sono alcune tematiche che affronta in una maniera abbastanza superficiale, che accenna appena, ma ci sono delle tematiche che la Bibbia ci presenta in una maniera ripetitiva, frequente, e quelle tematiche, a mio avviso, evidentemente stanno particolarmente a cuore a Dio. E una di queste tematiche è la preghiera. E quando ho riflettuto su questo, mi sono entusiasmato, perché nel riconoscere che dalla Genesi all'Apocalisse non si fa altro che parlare della possibilità di avere comunione con Dio in preghiera, ho compreso quanto a cuore stia a Dio il fatto che noi possiamo avere comunione con Lui. Non è bellissimo pensarlo in questa maniera? A volte leggiamo la Bibbia e pensiamo che la preghiera è qualcosa che ci dobbiamo sforzare di fare, è un'obbligazione, è una penitenza, è qualcosa che ci viene imposto. Invece è il privilegio più grande che noi, quale creature create dal Dio Onnipotente, abbiamo, cioè di entrare in intima relazione, in personale relazione con colui che ci ha creato, il Dio dell'universo, il Dio dell'impossibile, colui che può ogni cosa. E Lui vuole tanto questo, Lui vuole questa comunione, Lui vuole questa comunicazione, ed è per questo che ci parla continuamente della preghiera. E come lo fa? Dando delle istruzioni molto pratiche. La Bibbia ci presenta delle istruzioni molto dettagliate su come va vissuta la preghiera. La preghiera non è un'invenzione di un uomo o di uomini, non può essere qualcosa che ti inventi tu e che fai secondo le tue regole, ma è qualcosa che è ben indicato nella parola di Dio per essere efficace. Vuoi avere comunione con Dio, vuoi vivere una preghiera che è efficace nella tua vita, allora devi attenerti alle istruzioni che Dio stesso ci dà nella sua parola e che ci parlano della preghiera. Non solo la Bibbia ci presenta delle istruzioni che riguardano la preghiera, ma in più ci presenta degli uomini, delle donne, dei personaggi la cui vita è stata determinante proprio perché hanno vissuto la preghiera, vivevano preghiera. Pensate a Mosè, pensate a Daniele, pensate a Davide, pensate a tutti i personaggi che hanno fatto la storia, Neemia, hanno vissuto quel contatto e quella preghiera che ha determinato la loro vita. E già qui mi vorrei fermare per dirti questa cosa. Ragazzi, ragazze, fratelli, sorelle, se vogliamo una vita che è significante, vogliamo fare la differenza su questa terra, non lo possiamo fare da soli e abbiamo bisogno di avere comunione con il Dio Onnipotente, che vuole servirsi di noi e fa della preghiera il mezzo attraverso il quale noi possiamo entrare in intimità e in contatto con Lui. Istruzioni, esempi di personaggi, e in più la Bibbia addirittura ci riporta per iscritto delle preghiere. Il libro dei Salmi forse è l'esempio migliore, dove tu hai la possibilità di leggere delle preghiere, e questo ci fa capire quanto a cuore stia a Dio la preghiera, a tal punto da darci degli esempi pratici di come pregare, come Davide ha pregato, come l'apostolo Paolo ha pregato, come Neemia ha pregato, come Mosè ha pregato, eccetera eccetera. Però io stasera non mi voglio fermare non mi voglio soffermare su tanti personaggi, voglio andare dritto al maestro, a colui che più di chiunque altro può insegnarci la preghiera, perché lui era uno con il Padre, lui è uno con il Padre, lo Spirito Santo, ed è Cristo Gesù. Nessuno meglio di lui può insegnarci la preghiera. Quindi vogliamo leggere insieme che cosa lui ha da dire, cosa Gesù ha da dire sulla preghiera. In Matteo 6, dal versetto 5, noi leggiamo queste istruzioni di Gesù, dalla bocca di Gesù. E lui dice: quando pregate, non siate come gli ipocriti. Già qui ci potremmo fermare. Non falsate questa cosa. Non recitate una parte. Non siate ipocriti. E poi va avanti dicendo: poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Sta facendo riferimento ai farisei, agli scribi, ai religiosi che vivevano una preghiera che non era efficace, evidentemente. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Questo è tutto quello che hanno. Riconoscimento da parte degli uomini. Bella figura. Non ci interessa questo per la preghiera. Amen. Noi vogliamo altro per la preghiera. Ma tu quando preghi, dice Gesù, entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Gesù sta dicendo della preghiera: non è un atto che devi vivere nella tua vita per dimostrare qualcosa a qualcuno. La preghiera non è qualcosa che tu vivi per dimostrare ad altri quanto sei cristiano e credente. Non ottieni niente da questo. La preghiera non è qualcosa che tu fai per garantirti l'approvazione degli uomini, ma piuttosto la preghiera è qualcosa che tu vivi per entrare in comunione con Dio. Questa è la preghiera. Questo è il senso e il valore della preghiera. E questo è straordinario, tu puoi entrare in comunione con il Dio vivente. Non è fatta di tante parole, dice Gesù, e in modo particolare si riferisce a quel tipo di preghiera fatta dai pagani, ovvero da tutti coloro che non hanno Cristo, e noi lo vediamo in tutte le religioni, c'è questo comune denominatore, che le preghiere vengono fatte come una ripetizione meccanica, e si pensa che gratifichiamo Dio nel momento in cui facciamo tante preghiere, lunghe preghiere, tante ripetizioni meccaniche. Questo non è quello che il Signore ci chiede di vivere nella preghiera, anzi tutto il contrario. Al posto di vivere una preghiera che è meccanica, che è ripetuta, che è religiosa, il Signore ci invita a vivere una preghiera che è sincera, che è autentica, che è dialogo, che è discorsiva, che ci vede veramente coinvolti col cuore, non solo con le labbra, in questa conversazione con Dio. È un pericolo che noi credenti possiamo vivere. Noi che conosciamo la Bibbia, noi che conosciamo queste istruzioni di Gesù, possiamo vivere il pericolo di entrare in una preghiera e vivere una preghiera che è religiosa? Beh, io credo di sì. Perché mi sono ascoltato alcune volte. Voi vi siete mai ascoltati pregare? Io mi ascolto a volte e mi faccio paura da solo, no? E una volta mi sono soffermato. Quante volte ripetevo la parola Padre? Padre, ti prego, Padre, ti prego, Padre, Signore Gesù, ti prego, Signore Gesù, Signore. Non è sbagliato, però perché abbiamo queste ripetizioni? Non è per avere un parlare che sia fluido, che non abbia pause. Gesù dice invece no, deve essere un discorso. Come parli con tua moglie? Come parli con tuo marito? Come parli con un confidente, con un amico? Non ci sono forse delle pause? Non c'è un discorso che parte dal cuore, che è riflettuto. Non dici delle parole che sono pensate, come se effettivamente stessi parlando con qualcuno. Gesù dice: parla col tuo Padre in questa maniera, perché Lui è presente. Gesù ci invita ad essere sinceri nella preghiera. A volte sono venute delle persone a me a dire: io non so pregare. E sapete, io mi sono reso conto che proprio le persone che dicono che non sanno pregare, sanno pregare. E io che so pregare e divento per loro una minaccia perché dimostro a loro che non sanno pregare, sono quello che non sa pregare. E quindi quello che dovremmo fare noi come credenti è dire: che vuoi dire che non sai pregare? Vuol dire forse che non sai pregare come prego io? Perché se la risposta è sì, allora preghi bene. E io voglio imparare da te a pregare autenticamente. Perché pregare, fino a prova contraria, non è altro che parlare in una maniera autentica e sincera, con quelle pause e con quella attenzione a quello che si sta dicendo. I migliori esempi di preghiera ce l'abbiamo da due categorie di persone. I bambini, siete d'accordo? Sinceri, autentici, senza giri di parole, senza troppe ripetizioni, così nudo, crudo, con tutta la fede che c'è in loro, nel credere che Dio in quel momento effettivamente li stia ascoltando, e le persone disperate. Le mie preghiere migliori sono state nei momenti e nelle stagioni più disperate. Vi siete resi conto quanto cambiano le preghiere quando sei disperato? Quando sei in pericolo di vita, letteralmente. Quando ti sembra che tutto ti sta schiacciando, in quel momento la tua preghiera diventa autentica e sincera e tu lì in ginocchio dici: Signore, davvero, davvero ti prego, davvero ho bisogno del tuo intervento. Questa è la preghiera di cui Gesù sta parlando e questa è la preghiera che viene ricompensata dal Padre, questa è la preghiera che noi dobbiamo vivere. Un terzo aspetto è che la preghiera, Gesù lo dimostra chiaramente, non serve a Dio. Dio già conosce le nostre richieste, Lui già conosce i nostri bisogni. Anzi, per dirla meglio, Lui conosce i nostri bisogni meglio ancora di quanto noi li conosciamo. Tu vai lì preparato a dire: Signore, le so tutto ciò che ti devo chiedere, per l'Egitto, per la Nord Corea, poi ti prego per me, per la mia famiglia, per la salute, eccetera, eccetera. E il Signore dice: ma tu ti rendi conto che io conosco i tuoi bisogni meglio di quanto tu li conosci e quanto tu vuoi presentarli a me? La preghiera non serve per aggiornare Dio su quello che è la nostra condizione e dettagliatamente dirgli tutto. Se non serve a Dio, serve a noi per scaricarci dei pesi, per scaricarci delle cose di cui abbiamo bisogno e cercare la sua intimità per vivere quello scambio, perché la preghiera è uno scambio. Ora Gesù non solo istruisce sulla preghiera, e questa è la cosa meravigliosa che noi abbiamo l'opportunità di fare quando apriamo i Vangeli. Io vi invito a leggere, a rileggere e ripetutamente riflettere, meditare sui Vangeli e leggerli, leggere in tanta quantità ma lentamente. La cosa bellissima dei Vangeli è che ci dà la possibilità di entrare nella vita di Gesù come se fosse un film e osservarlo. E ci sono dei versi che a volte ci passano velocemente davanti, però ci mostrano qualcosa di straordinario di Gesù. Ne vogliamo leggere alcuni che riguardano proprio la sua vita di preghiera. Marco 1, versetto 35. Poi la mattina, ascoltate bene, la mattina mentre era ancora notte. Deve essere stato abbastanza presto. Quanti conoscono la mattina che non è ancora giorno? Qualcuno, vedi? I veri lavoratori in mezzo a noi. La mattina mentre era ancora notte, Gesù si alzò. Una scelta, una determinazione, una priorità della sua vita. Si alzò, uscì e se ne andò, leggete bene con me, in un luogo deserto e là pregava. in un luogo deserto. Questa è una cosa che continuamente leggiamo nei Vangeli. Infatti anche in Luca 5, 15, 16 leggiamo: però la fame di lui si spandeva sempre di più e grandi folle si radunavano per udirlo ed essere guarite dalle loro infermità. Ma egli, quando c'è un ma nella parola di Dio, dobbiamo prestare attenzione. Ce l'ha insegnato Gianluca, mio fratello. Questo ma è determinante. Questo ma sta a significare che Gesù non metteva quale priorità della sua vita il guarire gli infermi e predicare e insegnare alle folle. Lui metteva quale priorità della sua vita appartarsi e stare con il Padre. Infatti è proprio appartandosi e stando con il Padre che traeva quella forza e quell'unzione, quella potenza per poi insegnare alle folle e guarirle efficacemente. Può essere una persona che fa la differenza attraverso la potenza di Dio su questa terra? Vuoi essere un mezzo di guarigione, di insegnamento della parola, per portare luce ai tuoi familiari, per avvicinarli a Cristo? Sai qual è la priorità per te? Non saper parlare bene e non saper fare la giusta preghiera di imposizione delle mani per guarirli. È vivere il tempo di deserto appartato con Dio che ti darà la forza di vivere una vita straordinaria. Luca 6. Versetto 12 e 13, in quei giorni egli andò sul monte a pregare e passò la notte in preghiera a Dio. Qui è Gesù che raggiunge un nuovo livello, non è più solo la mattina prima ancora che sorge il sole, ma l'intera notte che Gesù prega. E noi leggiamo poi che quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli. E ci soffermeremo su questo aspetto di questo verso. Però prima di tutto io voglio parlare del deserto. Gesù si apparta sul monte, si apparta nel deserto ed evidentemente lui cerca di proposito un luogo che è appartato senza distrazioni. Ed è quello che lui insegna, perché Gesù insegna quello che vive, e quello che vive lui insegna, e noi vediamo questa continuità tra l'insegnamento e il suo esempio di vita. Lui insegna: quando preghi, mettiti nella cameretta e chiudi la porta. E lui dimostra che magari una cameretta non ce l'aveva e non c'era una porta da chiudere, ma aveva un deserto nel quale poteva appartarsi, ed è la stessa cosa. E io mi sono chiesto: qual è il deserto per me nel 2017, qui in Puglia, che deserto non c'è e non ci sono neanche i monti nei quali possiamo appartarci? Posso rendere pratico per ciascuno di noi questo messaggio? Perché il mio desiderio, alla luce della parola di Dio, è che ciascuno di noi possa vivere un tempo di qualità in preghiera e possa conquistare questa intimità che segnerà un cambiamento di vita per te. Perché io sono convinto che chiunque mi sta ascoltando in questo momento, se mette in pratica questa parola, questo messaggio cruciale, avrà un destino di vita meraviglioso, perché Dio avrà la possibilità di agire e intervenire attraverso di te nella preghiera. Come puoi vivere il deserto? Beh, il mio deserto è l'abitacolo della mia macchina. E vi faccio vedere una foto. Questo è il mio deserto, il mio modo per appartarmi. Ora, chiaramente ho messo una foto di una Bentley, non ho una Bentley. L'abitacolo della mia macchina invece è questo, vediamo la prossima foto. È la Golf dell'86, però funziona allo stesso modo. E io ho la possibilità di mettermi in macchina e appartarmi e trovare un posto nel quale so che non c'è movimento, non c'è distrazione. A volte vado davanti al mare, a volte vado in un parcheggio, a volte vado in una strada che non è trafficata, e lì ho la possibilità di stare appartato con Dio. Cerca un posto nel quale tu puoi appartarti con Dio. È questa l'istruzione che Gesù ti sta dando. E quando Gesù dice la cameretta, letteralmente dal greco quella cameretta è sgabuzzino, ripostiglio, posto, camera segreta della casa. Quindi per te forse può essere questo il tuo deserto. Vediamo la prossima foto. Oh, quella del camerino e del bagno. Eccolo, ho messo tutti e due insieme. Perché può funzionare il ripostiglio. Avete un ripostiglio? Forse lì ti puoi rinchiudere. Posto appartato, dove nessuno ti cerca, a meno che ha bisogno di una scopa o di un aspirapolvere. Dubito che i tuoi figli avranno bisogno di un aspirapolvere e di una scopa. Quindi per le donne è un ottimo posto. Un altro posto ideale è il bagno. Dio non si offende. Se hai la possibilità di appartarti in bagno, soprattutto se avete più di un bagno a casa, perché se ne avete solo uno sono guai, però se ne avete più di uno e sapete che se ti metti lì dentro nessuno ti disturberà, usa quello. Chiudi la porta, letteralmente. Quanto è pratico Gesù nel dire mettiti nella stanzetta e chiudi la porta? Non sono metafore mistiche e idee che dobbiamo interpretare con un'esegesi particolare. Gesù sta dando delle indicazioni pratiche per dire quando preghi tu hai bisogno di appartarti, hai bisogno di chiudere la porta. È bello questo, perché Gesù non dice solo che ti basta l'abitacolo o ti basta il ripostiglio. Gesù dice anche, va chiusa la porta. Tu devi difendere l'ambiente dove tu ti stai appartando e per me chiudere la porta, e possiamo rimettere la foto, significa spegnere il cellulare. Questo è per me chiudere la porta. Perché non so a voi, però proprio quando io cerco di stare in intimità con il Signore in preghiera, quel maledetto telefono comincia a suonare come non mai. Notifiche a destra e sinistra e nei miei pensieri stranamente viene quella passione, quel desiderio irrefrenabile di andare ad aggiornarmi su Facebook per vedere tutti gli altri che cosa stanno facendo e magari mettere la mia foto nell'abitacolo della macchina per far sapere a tutti che sto pregando con Dio. E il Signore mi guarda dall'alto e dice, ma davvero è questo il tuo appartarti? Far sapere agli altri, questo è metterti sulla piazza, questo significa stare agli angoli delle strade e mostrare agli altri che stai pregando. Spegni il cellulare. Cosa può succedere in quell'ora dove tu ti apparti e spegni il cellulare? Quale catastrofe immane potrà abbattersi sulla tua famiglia e sulla tua vita in quell'ora che spegni il cellulare? Spegnilo! Sarà una cosa che ti porterà a conquistare un tempo e uno spazio segreto e di deserto. Gesù andava nel deserto. Entra nella cameretta, chiudi la porta e parla al Signore nel segreto. E che cos'è questo segreto? Io l'ho immaginato, sfogliando tra le varie foto, come quella possibilità che ci diamo di concentrarci su Dio. Perché a volte non basta avere il luogo giusto e la porta chiusa o il cellulare spento. I nostri pensieri viaggiano a una velocità incredibile e la nostra capacità di distrazione è pazzesca. Io sono consapevole che in questo momento probabilmente il 30, il 40% di noi è distratto da altri pensieri. E non ne faccio un modo per giudicare, siete diventati tutti silenziosi. Ma il nostro cervello è difficile da spegnere, magari ci fosse un tasto da qualche parte per spegnere e dire voglio solo sentire Mirko, voglio solo sentire il pastore, voglio solo concentrarmi sul messaggio. No, in questo momento ti stanno venendo altri pensieri. La distrazione però è un furto. Ed è il furto delle benedizioni che Dio ha per te. E mi sono imbattuto in questa foto di questo bambino con il cannocchiale. Non so se avete mai usato un cannocchiale. E credo che questa è una bellissima immagine, spero che possa rimanervi nel cuore, nella mente, che ci mostra come possiamo concentrarci su Dio. Per usare un cannocchiale devi chiudere un occhio, tenere solo uno aperto, devi concentrarti su quel foro minuscolo, devi mettere a fuoco le lenti e avrai la possibilità con quel cannocchiale non di vedere a 360 gradi, ma di vedere in un particolare spazio geografico. E questo è il segreto. Questo è il segreto della tua stanza. Concentrarti su Dio. Concentrarti su Dio, a me funziona tanto, anche perché poi un'istruzione che leggiamo nella Bibbia, nel Salmo 100, che dice: entrate nei suoi cortili con lode, nelle sue porte con lode, nei suoi cortili con il ringraziamento. Vuoi entrare alla presenza di Dio? Usa il cannocchiale, comincia a lodarlo, comincia a ringraziarlo. Sapete qual è la differenza tra questo tipo di preghiera e ogni altro tipo di preghiera? La maggior parte di noi, io sono convinto, che prega anche durante tutta la giornata, mentre facciamo le faccende, mentre ci muoviamo, mentre lavoriamo, però non è di questa preghiera che sto parlando. Sì, la Bibbia dice pregate in ogni tempo ed è giusto che tu preghi in ogni tempo, dovunque, ma la preghiera di cui sto parlando questa sera è una preghiera che ci permette di accedere alla presenza di Dio ed essere completamente assorbiti da Lui, ed è un tempo di qualità straordinario. E quando lo vivi ti cambia da dentro a fuori, completamente. A volte le nostre preghiere sono come le richieste di qualcuno che è fuori da una stanza e chiede a chi è nella stanza di fargli un favore. E noi è come se gridassimo a Dio che è dentro quella stanza e gli chiediamo: Signore, agisci nella mia vita in questo, fai quest'altro e ti prego per quest'altra cosa ancora e ti ringrazio. E a distanza, fuori dalla stanza, gridiamo a Lui che è dentro nella stanza, e quando abbiamo finito la preghiera diciamo Amen, ma non abbiamo conquistato un territorio nuovo, un'atmosfera nuova, un clima nuovo, uno spirito nuovo nella nostra vita. E Dio invece, attraverso quelle che sono le istruzioni di Cristo Gesù, per quello che è la preghiera intima alla quale ci sta invitando, ci sta chiedendo di entrare nella sua stanza e di dire: ok, vieni, entra dentro e parliamo, dialoghiamo e stai alla mia presenza. Questa è la preghiera che Mosè viveva. Lui stava faccia a faccia con Dio e non è qualcosa che è solo per una piccola elite di credenti da vivere. In Ebrei c'è scritto che noi abbiamo per grazia in Cristo Gesù la possibilità di entrare alla presenza di Dio nel luogo santissimo, quel luogo dove nel Vecchio Testamento il sacerdote poteva entrare una volta all'anno, purificato con tutta una serie di rituali. E gli attaccavano pure una fune alla gamba, perché nel caso in cui fosse trovato impuro rischiava di morire alla presenza di Dio, e lo trascinavano fuori dal luogo santissimo attraverso questa fune. Quel velo è stato rotto attraverso Cristo Gesù e per la sua grazia noi abbiamo la possibilità di accedere nel luogo santissimo, ma per farlo dobbiamo essere intenzionali. Non possiamo vivere un tempo di preghiera dove solamente urliamo fuori dalla stanza, ma dove entriamo nella stanza, mettiamo il cannocchiale, ci concentriamo su Dio, lodiamo il suo nome, lo ringraziamo e gli diciamo sinceramente: Signore, io voglio la tua presenza. Io non voglio solo farti la lista della spesa e pregarti tutta una serie di parole buone. Io voglio la tua presenza, io ricerco la tua presenza, io voglio che tu mi abbracci, io voglio che tu mi inondi di te. E quando noi facciamo questo tipo di ricerca, Dio interviene, ma non con troppa fretta. Avete notato che Dio è paziente? E questa caratteristica di Dio, che è paziente, Lui la vuole insegnare anche a noi. Lui non vuole dei figli che hanno fretta. A volte anche nelle riunioni di preghiera che abbiamo come chiesa, no? Entriamo e abbiamo fretta. Fretta di uscire. E così capita che entriamo in quella stanza e diciamo: Signore, ho 10 minuti a disposizione. Vieni, riempimi della tua presenza, per piacere cambia le circostanze della mia vita, io ti lodo, io ti adoro, amen, devo andare. il Signore invece dice: no, non funziona così. Voglio insegnarti la pazienza. Voglio che tu spendi la notte con me prima che io ti dia delle indicazioni. Quanta pazienza ha dovuto vivere e sperimentare Gesù quella notte? Signore, ti prego, ho bisogno che tu mi illumini e che tu mi mostri quali saranno i 12 discepoli che devo scegliere. Ne va il destino del mondo intero, ho bisogno di 12 uomini che sei tu a indicarmi, non li voglio scegliere secondo la mia mente, secondo i miei ragionamenti. Signore, agisci, parla ora, la prima ora. Padre, ancora non mi hai risposto, mi hai rivelato forse 2 nomi, non lo so com'è andata quella notte. Mi hai rivelato 2 nomi, ne mancano ancora 10. La seconda ora, la terza ora, la quarta ora, la quinta ora, 6 ore, 7 ore, 8 ore, poi tutti i nomi. Vuoi avere orientamento nella tua vita? Vuoi sapere dove Dio ti sta chiamando? Impara la pazienza alla sua presenza. Davide dice nel Salmo 40: ho pazientemente aspettato il Signore ed Egli si è chinato. Si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. Mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso. Ha fatto posare i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. Egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico a lode del nostro Dio. Molti vedranno questo e temeranno e confideranno nel Signore. Perché pazientemente Davide ha aspettato, un nuovo canto gli è stato dato e la possibilità di influenzare popoli e generazioni è stato possibile perché ha pazientemente aspettato il Signore. Ed è bello che la parola dice, Davide dice, e il Signore si è chinato su di me. Non vi dà l'idea di qualcosa che avviene lentamente, no? Non è che Dio dice, beh, visto che pazientemente aspetta, mo il Signore poi è venuto come un vento impetuoso, di corsa è arrivato, no? Piano piano. Si è chinato su di me e mi ha risposto. Il Signore vuole farti vivere una preghiera che è talmente efficace da trasformare i tuoi pensieri, i tuoi sentimenti, la tua vita e influenzare la vita di generazioni. Perché dovresti vivere questa preghiera? Beh, l'ho detto perché è questo tipo di preghiera che ti dà orientamento nella vita. Se sei qui questa sera e dici io non so cosa devo fare in questa stagione della mia vita, ho fatto tante cose in passato, ma in questa stagione non so che fare. Stai alla presenza di Dio, cercalo, sarà Lui a guidarti. La tua vita non dipende dalle persone che ti circondano. A volte ci lamentiamo, ma il datore di lavoro non mi ha visto, o il ministro in chiesa, il pastore non mi ha riconosciuto, o questo fratello, quel fratello è la causa della mia vita ferma. Ma davvero? E chi è che guida la tua vita? Io? I tuoi fratelli? Il tuo datore di lavoro? Non è forse Dio? Cerca Dio. Ed è Lui che vuole aprire davanti a te una strada nuova e darti un canto nuovo e darti la possibilità di essere influente. Perché dovresti vivere questa preghiera, questo tipo di preghiera e questo tipo di intimità? Perché solo questo tipo di intimità e questo tipo di preghiera permette a te di vivere la pace piena nel cuore e nella mente. Non lo sto inventando io, in Filippesi capitolo 4 dal versetto 6 dice: non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste in preghiere e suppliche accompagnate da ringraziamento. E poi aggiunge: e la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà la vostra mente e il vostro cuore in Cristo Gesù. Se solo noi riscoprissimo il valore della preghiera nella nostra vita, non ricorreremmo a antidepressivi e a psicologi per aiutarci per l'ansia che viviamo e lo stress che affrontiamo, perché c'è una pace che sorpassa ogni intelligenza umana, che ci viene data nel momento in cui facciamo nostra la preghiera intima della cameretta. Quanti appuntamenti in mezzo a noi, anche come chiesa, verrebbero meno. E posso incoraggiarti, se sei un capogruppo, stai in un qualche modo influenzando un fratello o una sorella, il migliore dei consigli che tu puoi dare, l'istruzione migliore che tu puoi dare è: prega, stai con Dio per questa situazione, lo facciamo insieme. A volte vogliamo trovare noi le soluzioni e parliamo e riparliamo, ma ci rendiamo conto che anche quando Gesù ci ha detto di fare discepoli, lui non ha detto fate vostri discepoli le persone. In Matteo 28, 18-20 c'è scritto, Gesù lo dice, fate miei discepoli. Noi dobbiamo invitare le persone che il Signore ci affida a dipendere da Cristo e ad essere suoi discepoli. A dipendere da Lui, perché è lì che c'è la soluzione. Hai un problema questa sera? Io ho già la soluzione per te. Un problema in famiglia, un problema matrimoniale, un problema economico, un problema di qualsiasi tipo. Hai ansia nella tua vita? Io ho una soluzione per te e non è mia, è Cristo che ne parla. Ed è Lui che ti dice, la soluzione è il Padre Celeste che ti sta aspettando in quella stanza per darti quella pace che sorpassa ogni intelligenza. La preghiera è uno scambio. Tu vai a Lui con le tue richieste, con le tue ansie, nel tuo stress, e Lui in ricambio ti dà la pace. Io, non c'è dubbio. Non c'è dubbio, a meno che vogliamo mettere in dubbio la parola di Dio e quello che Dio dice nella sua parola. E la sua parola non dice, è forse il Signore, alla luce della tua capacità di esprimere i tuoi bisogni, le tue richieste, le tue suppliche, forse ti darà la pace che sorpassa ogni intelligenza. No, la parola di Dio dice, e Dio ti darà. E la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza custodirà il tuo cuore e la tua mente in Cristo Gesù. Vogliamo alzarci in piedi? Vogliamo insieme entrare nella cameretta, in quelli che sono i pochi minuti che abbiamo a disposizione, però vogliamo sfruttarli appieno. Chiaramente questo messaggio è per la nostra settimana, non è per oggi. E il mio invito questa sera è: prendi l'impegno di stare con il Signore questa settimana. Però nel tempo che ci sta davanti, vogliamo adorare e cercare il Signore. Vuoi tu fare quella preghiera sincera a Dio? Talmente sincera che magari gli puoi dire, Signore, io non desidero neanche, non ho tempo, ho fretta, non so pregare. Puoi dire tutto, ma sii sincero. Una delle più belle preghiere che io abbia mai ascoltato è quella che ho letto in un libro di un autore che scrive, Signore, io voglio amarti di più, ma quando non voglio, aiutami a volerlo. Quanta sincerità c'è in questo? Addirittura riconoscere che a volte noi non vogliamo quello che è meglio per noi o lo vogliamo in parte, possiamo chiedere a Dio di aumentare il nostro desiderio di quelle cose buone per noi. Vogliamo chiudere i nostri occhi, vogliamo concentrarci su Gesù. Se questa sera dici, io voglio di più della sua presenza nella mia vita, allora io ti invito ad alzare le tue mani, ora vivremo un tempo di adorazione, ti chiedo tu stesso di cominciare a fare la tua preghiera. Pregare a Dio disperatamente, con tutto il cuore, in una maniera sincera. Padre, io voglio pregarti in questo momento. Io vengo a te in preghiera a nome di tutti noi per chiederti di invaderci della tua presenza. Noi vogliamo essere completamente coperti da te. Noi vogliamo sentire quelli che sono i tuoi sentimenti. Noi vogliamo avere i pensieri che tu stesso hai. Noi vogliamo una trasformazione completa e vogliamo sentirci così uniti a te che nessuna distrazione diventa allettante per noi, perché tu sei l'oggetto più prezioso e di più grande desiderio che abbiamo. In questo momento noi lasciamo i nostri pesi. Lo prego per tutti noi, Gesù. Tutti i nostri pesi, tutti i nostri peccati, tutte le nostre distrazioni, tutti i nostri ragionamenti, tutti quei sentimenti sbagliati, quell'amarezza, quello scoraggiamento, quel rancore, noi in questo momento lo vogliamo lasciare ai piedi della croce. Vogliamo arrenderci a te e dirti, Gesù, che sei la cosa più preziosa, e vogliamo entrare in quella stanza, vogliamo incontrarti, vogliamo avere un canto nuovo da te.